Svegli, svegli, svegli, resta svegli, svegli, svegli, svegli, svegli, resta svegli, svegli, svegli, svegli, resta svegli, svegli, resta svegli, svegli, resta svegli. Se ti accorgi che non riesci a concludere un cazzo, forse perché dormi, è l'espressione di un pazzo, ma la tua posizione è quella di un pupazzo, immobile con il fuoco in culo come un razzo. Ti spazzo, da questo giro lo siamo i maestri, tu un povero Cristo, mi fissi come un ghiro, sto finendo il mixtape, tu ciao zio. Noi dormiamo e sappiamo che siamo la nuova generazione, facciamo paura come i mostri nella tua immaginazione, impariamo a volare e diciamo fanculo a questa nazione, rime bastarde per riempire il copione. Non faccio l'attore, ma mi impegno a essere il campione. Il mio flow cambia come il tempo al meridione. Il tuo show gasa come un porno e due troie, guardandola alla televisione, guardando un'invasione. Io e te fumando un cannone, sono io il migliore, ti scarto dalla selezione. Sveglio fra non dormire, tu lento sul beat mi fai deprimere. Non siamo il top di questo vivere, non siate gelosi a vivere. Sveglio fra non dormire, tu lento sul beat mi fai deprimere. Non siamo il top di questo vivere, non siate gelosi a vivere. Un'altra notte in sonno, quindi inizio questo testo. So che è colpa delle donne, però il vizio non l'ho perso. Il mio peggior nemico è una proiezione di me stesso, che mi costringe a non dormire finché non confesso. Da quando ho tagliato la laringe al mio riflesso, apro il frigorifero e giro per la stanza, cerco un soporifero che mi stacchi dall'ansia. Finisco un altro arisma tra gli attacchi d'ansia, ho gli occhi tutti rossi iniettati dal mio plasma. Calma, spero che quando sogno poi ritorno sì in Olanda, invece resto solo al sole buio in questa landa. Sono come Ernest e resto vero all'alba, perso nell'oblio senza Dio, senza io, cerco Sio nella mia salma. Nell'area salmastra e manastile non direi, sono stato nel Nirvana, c'è il fucile di Cobain. Sveglio fra non dormire, tu lento sul beat mi fai deprimere. Non siamo il top di questo vivere, non siate gelosi a vivere. Sveglio fra non dormire, tu lento sul beat mi fai deprimere. Non siamo il top di questo vivere, non siate gelosi a vivere.